Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Dal mattino è un po' grigio, non c'è più dentifrigio. Io mi guardo allo specchio e mi sputo in un occhio. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Risveglio. Ci risvegliamo, molti di voi sono in pigiama e io colgo proprio l'occasione per farvi una domanda. Naturalmente il 349-238-6666 è a vostra disposizione per lasciare dei messaggi vocali. Quando vi alzate al mattino, che cosa vi racconta la vostra bocca? La sentite? Oppure manco pensate a lei? Sentite la bocca un pochino asciutta? Magari che brucia un po', oppure bella, fresca, riposata? Mi allargo un po' e la lituccio? Allora parliamo di tutte queste cose un po' intime di primo mattino insieme alla dottoressa Alessandra Rigoni, un medico chirurgo specialista in odontostomatologia e ortognatodonzia a Milano. Dottoressa Rigoni, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. La nostra bocca racconta tantissimo di noi. Sì. Del nostro stile di vita, di come stiamo, di come la trattiamo, del livello di stress che stiamo sopportando, degli anni che abbiamo, della fase della vita in cui siamo. Insomma, la bocca è lì fatta per parlare, facciamola parlare. Dottoressa Rigoni. Una volta il medico di base faceva aprire la bocca e tirare fuori la lingua al paziente, quindi questo è indicativo di qualcosa. E infatti la mattina quando ci svegliamo dovremmo avere una situazione non eccessivamente sgradevole. Quindi non dovremmo sentirla la bocca, giusto? No, quasi. Non dovremmo sentirla, cioè, uguali. Dipende anche da cosa abbiamo mangiato la sera prima, dalla condizione in cui dormiamo. Magari la stanza è particolarmente asciutta e secca. Perché a volte ci svegliamo con un senso un po' di arsura, la bocca secca. Che cosa ci racconta? Ci racconta cosa abbiamo fatto un di po' notte? Di cose. Allora, una digestione molto indaginosa, abbiamo mangiato troppo, abbiamo bevuto alcolici, oppure abbiamo delle problematiche nostre, oppure abbiamo ancora dormito con la bocca aperta, siamo degli apnoici, dei russatori, quindi bocca spalancata e si disidrata molto più facilmente. Si dovrebbe dormire con la bocca chiusa, naturalmente. Ci sono poi situazioni come la menopausa, dove si produce meno saliva, alcune patologie come la sindrome di Sjögren, dove le ghiandole salivari producono molto meno sostanza sia mucosa che liquida. Quindi ci sono una serie queste di queste possono essere le cause, pensate, ecco. Quindi cercate di collocarvi in una di queste situazioni. Dottoressa Rigoni, ma io mi alzo, la bocca secca, posso pensare di essere un russatore, penso alla sera prima cosa ho mangiato, sono in menopausa. Che cosa posso fare di primo mattino? Di primo mattino bere, la cosa più importante è quando ci si sveglia a bere. E se si ha la bocca veramente secca, tenere sul comodino la saliva sintetica. Durante la notte ogni tanto darsi una spruzzatina. Dottoressa Rigoni, in una puntata, in una diretta Facebook, lei ci ha raccontato che la nostra bocca è popolata da batteri, da funghi, insomma il microbiota, proprio quello di cui parliamo spesso, parliamo del microbiota intestinale, esiste anche nella nostra bocca, si chiama microbiota orale per l'appunto. Ci sono un po' degli aiuti che vengono dati, vengono suggeriti dai dentisti per mantenere in equilibrio il microbiota, quindi anche in questo caso per chi sente magari la bocca particolarmente secca, oppure magari a volte la bocca non è secca ma brucia. La sentiamo, avvertiamo, non solo quando abbiamo l'afta che ci fa vedere le stelle. Sì. Potrebbe essere utile mettere un po' di pace tra le popolazioni che abitano, che compongono il nostro microbiota orale? Allora, innanzitutto la dobbiamo umettare sempre bene, bere in questa quantità sufficiente, perché spesso gli anziani non bevono un'adeguata quantità di acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. Usare gli spray di cui parlavo e poi usare delle compresse che sono a base di sono dei microbiota che si possono assumere tutti i giorni. Sono praticamente dei probiotici. Sì, sono delle caramelle che contengono esattamente come quelle, i fermenti lattici che noi prendiamo per l'intestino. Ci sono anche per la bocca. Certamente. Bene. Vanno tenuti in frigo e devono essere assunti tutti i giorni, dopo che ci si è lavati i denti, la sera, però almeno bisogna aspettare una mezz'ora perché il fluoro che è contenuto nel dentifricio può disattivarli, quindi ci si lava i denti, si aspetta una mezz'ora, anche un'ora, e prima di coricarsi si assume questa caramella che viene sciolta tranquillamente in bocca e poi si va a dormire. Mi piace, dottoressa Rigoni, e questo potrebbe in qualche modo servire a tutte le persone che sentono la bocca un pochino più secca, magari hanno frequentemente le afte? Questo può aiutare, insieme però all'umettamento, cioè bisogna tenere la bocca umida, perché altrimenti tutti i nostri batteri che devono proliferare in un ambiente umido hanno difficoltà a sopravvivere. Senta, dottoressa Rigoni, diciamolo tra noi, al mattino l'alituccio non è sempre così di rosa. No. Lo mettiamo un po' in conto, certo, tanto che ci sciacquiamo, laviamo, eccetera, e poi siamo belli, freschi e riposati. Il problema però può riproporsi durante la giornata? È un problema delicato. Proprio un ascoltatore di recente ci ha scritto dicendo: ma vi occupate per favore dell'alito? Perché magari noi abbiamo un alito cattivo, ma non ce ne accorgiamo. Il nostro collega o il nostro partner vorrebbe dircelo e ha un po' di timore. E noi a nostra volta nei confronti degli altri. Dottoressa Rigoni, qua abbiamo bisogno del suo aiuto. Ci sono delle cose che possiamo fare: A, per accorgercene; B, come si dice, per eliminare o arginare un po' il problema. Sì, allora, di solito chi ha l'alito pesante non se ne accorge. E anche la famosa prova di alitarsi sulla mano spingendo questo odore Io sapevo al naso. Quella del che bisognava leccarsi il polso. Sì, ma non... Che poi non è tanto neanche bello. Non è neanche igienico, ben vedere, ma è una questione proprio di abitudine. Se noi abbiamo un odore non lo sentiamo più, perché il naso è attaccato alla bocca, quindi alla fine inspiriamo sempre il nostro odore. Cosa faccio? Cambio dentifricio? Si può cambiare dentifricio. Dei dentifrici? Ci sono colluttori molto profumati che possiamo utilizzare, anche dei colluttori che sopprimono queste sostanze solforose che noi è zolfo in pratica. Faccio? Noi lo so che lei non può fare pubblicità a nessuna marca, ma mi orienti. Magari si può chiedere al farmacista, ci sono dei colluttori specifici per l'alitosi. E quindi un non sono molti, per amico. Ma ci sono, sì. E poi anche gli oli essenziali aiutano molto, perché tengono a bada i cattivi odori. La caramellina alla menta, lavarsi spesso i denti e stare attenti che vengano rimossi tutti i detriti bene ogni volta. Andare in giro con lo scovolino, se si mangia qualcosa, rimuovere tra un dente e l'altro tutto il detrito di cibo. Certo. Quindi avere una particolare attenzione per l'igiene della bocca. Considerando che le persone un pochino più a rischio sono le persone che soffrono di gastrite, reflusso e anche lo stress. Lo stress muta questo, l'odore che abbiamo in bocca, muta il microbiota alla fine, e quindi dobbiamo stare attenti. Un po' tranquilli, quindi igiene, tanti sciacqui, idratazione. E un farmacista per amico. Dottoressa Rigoni, grazie per essere stata con noi, grazie a voi. Prendetela con filosofia. Ciao a tutti, sto seguendo queste mattine il vostro corso Prendila con filosofia. Ieri ho sentito l'intervento sul razzolare bene, predicare bene e razzolare altrettanto bene. Forse è più facile a dirlo che a farlo? Non lo so, questo è quello che mi è venuto in mente sentendovi. Ciao, buona giornata. Prendetela con filosofia. F-I-L-O-S-O-F-I-A. Prendetela con filosofia. Filosofia. Il messaggio che abbiamo appena sentito introduce il nostro spazio settimanale con Leonardo Caffo, il filosofo che ci accompagna per tutta questa settimana, per insegnarci a prenderla con filosofia. Leonardo, ciao, grazie ancora per oggi. Sì, ho vabbè, sentito, tutti bravi a dirlo a parole, ma poi... È una giusta obiezione, solo che proprio il filosofo che abbiamo preso come guida in questi giorni, Thoreau, era uno che ha subito le conseguenze di quello che diceva. in pratica, perché per esempio non era un professore universitario che stava dietro la sua scrivania e diceva agli altri cosa fare, è stato un ragazzo che mentre insegnava a scuola si è dimesso dall'insegnamento scolastico e aveva bisogno di uno stipendio perché in quel momento gli Stati Uniti avevano introdotto le pene corporali sugli studenti e lui non voleva assolutamente malmenare certo. Un ragazzo. È stato un uomo che ha raccontato le bellezze della natura, ma non dal caldo ufficio. A 28 anni si è costruito una famosissima capanna vicino a un lago, il lago di Walden, che è diventato quasi mitologico, e ha vissuto da solo. Quindi in realtà qualche filosofo, lui lo dice sempre in Walden, che sia proprio filosofo e non sia solo professore di filosofia, c'è stato, ma non sono i filosofi, il problema è essere umani, cioè dire una cosa e provarci. Lui l'ha fatto. E noi come facciamo a diventare un po' Thoreau? Quindi non solo a predicare bene, ma anche a razzolare bene, scusa l'ho banalizzato, no, ma giusto, poi diciamo, il sunto è quello. Era anche bello questo Thoreau, aveva un suo fascino da quello andrò che a sappiamo. Non bisogna andare in galera come ha fatto Thoreau per essere in accordo con i propri principi, ma semplicemente provare anche, come dire, a spararla meno grossa, e quindi poi è più facile anche seguire le conseguenze delle proprie azioni. Senti, ad esempio tu oggi cosa farai, dato che vogliamo dire che anche i filosofi hanno i piedi per terra? Ma non lo so, io faccio quello che fanno tutti, tipo sicuramente andrò per non spararle grosse, cosa farai? Ma per esempio una delle cose che penso sia importante fare è come dire partecipare attivamente al proseguo della mia giornata, quindi probabilmente tornerò e darò una mano alla mia ragazza che è incinta, così questo femminismo oltre a predicarlo lo realizziamo. Bravo, questo mi piace, e naturalmente vi invito a dirlo all'Anico 349-238-6666. Questa settimana lo dite all'Anico e al nostro amico filosofo Leonardo Caffo, che torna domani a trovarci. Noi ci sentiamo invece a mezzogiorno e poi ci vediamo, e questa non la sparo grossa perché ci vediamo ogni giorno per la nostra diretta Facebook. Buona giornata.